es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Teatro, puro teatro. Fuori dal dramma, dentro e oltre la comicità. Pièce teatrali femministe e lesbiche in radio. Perdona che non te crea, lo tuyo es puro teatro. Prima puntata del nuovo ciclo di trasmissioni che abbiamo chiamato Puro Teatro, fuori dal dramma, dentro e oltre la comicità, pièce teatrali femministe e lesbiche in radio. L'idea del titolo Puro Teatro ovviamente ci viene dalla canzone che è anche la sigla di questo ciclo di trasmissioni, è la bellissima canzone cantata da La Lupe. Fuori dal dramma, dentro e oltre la comicità, perché in questo spazio ospiteremo attrici, drammaturghe, donne, lesbiche, femministe, comiche, ma non solo. Diciamo che l'idea ci è venuta proprio dal piacere della comicità, dal piacere dell'aver riso tanto, di esserci divertite in alcuni spettacoli cui abbiamo assistito le nostre vite negli ultimi tempi, spettacoli appunto di comicità femminista, di comicità lesbica, e quindi da lì è nata l'idea di questo ciclo di teatro, l'idea di portare queste pièce teatrali femministe e lesbiche, di portarle in radio. Chiaramente non siamo le prime a portare il teatro in radio, esiste una trasmissione da molti anni su Radio Onda Rossa, fatta molto bene, a cui ovviamente ci siamo anche noi ispirate, stiamo parlando di Radioteatro del Fedingo, e quindi abbiamo scritto, contattato le attrici che più di tutte ci piacevano e ci faceva piacere anche ospitare in radio. E da qui è nato questo ciclo di trasmissioni. Oggi ascoltiamo la prima trasmissione, la prima puntata di questo ciclo, dal titolo Il cabaret lesbico livornese di e con Carlina Benvenuti, che è una cara amica, una cara compagna, e quindi siamo molto contente di ospitarla. Iniziamo mandando in onda una sua pièce teatrale che si intitola L'assassina. Scritto da Paola Cavallin, interpretato da Carlina Benvenuti. Thank you. notorio che le relazioni lesbiche siano fondate sull'amore, sulla similarità e sulla dolcezza. Parlo per esperienza. Ho 45 anni e tutte le mie amanti hanno sempre posseduto tutte le qualità fondamentali e rinunciabili di una vera lesbica: disponibilità, sensibilità e tenerezza. Lei, che mi ha appena lasciata, l'ho conosciuta al mare. Indossava un costumino verde, il suo colore preferito. Dormiva tutta ciambellata sulla sabbia. Dormiva sempre. Mi è bastato guardarla per capire che era la perfezione fatta donna. Quella sera ci siamo baciate per la prima volta. Si rivelò subito una donna attenta, servizievole e premurosa. Oh, mi adorava e io adoravo lei. Quello che più mi piaceva in lei erano le sue gambe slanciate, mi facevano impazzire. Le sue lunghe falcate mi lasciavano indietro nelle nostre camminate e da dietro osservavo le sue braccia sottili ondeggiare e ciondolare al ritmo. Il respiro mi si affannava sempre più, gli occhi mi si appannavano, ma percepivo comunque la sua sagoma affusolata. A casa, quando si spogliava, le dicevo sempre: "Che belle gambe che hai, non finiscono mai, mai, mai!" Era più alta di me di una spanna. Era meravigliosa. Certo che per baciarla dovevo alzarmi sulle punte, non che mi desse fastidio, ma non arrivavo dove arrivava lei, mai. Le mie amiche mi dicevano sempre: "È così alta, è troppo alta per te." E io: "Ma no, non vedete com'è aggraziata?" E poi mi dice sempre che lei non la sente la differenza tra noi. Già, lei non la sentiva. E io ad arrancarle dietro. E io che sembravo una nana. Non so quando fu, ma un giorno le chiesi di tagliarsi i capelli. Stava benissimo, rapata. Niente più spessore sulla testa. Poi presi l'abitudine di farle manicure e pedicure tutte le sere. Lei era così contenta delle mie attenzioni. Eravamo tutte e due così felici. Una notte non riuscivo a dormire. La vedevo lunga e distesa sul letto, tanto lunga che i piedi le uscivano dal materasso. Mi alzai e andai verso il bagno. E lì mi apparve luminosa la Lima. La afferrai. E corsi in camera sulle punte. Ormai ero diventata così abile. E cominciai a limar via le dita dei piedi. Non riuscii più a smettere. Ogni notte, quando dormiva profondamente, prendevo a limar via centimetri di lei. E ogni notte cresceva il mio amore per lei. Alla mattina, lei cominciò a fare fatica ad alzarsi. Diceva che si sentiva mal sicura sulle gambe. La rassicuravo, poiché la dottoressa era d'accordo con me nel garantirle che non c'era nulla, nulla di cui preoccuparsi. Le facevo mille massaggi con ogni cura, con tutti gli oli profumati e costosi. Lei mi adorava ed io adoravo lei. Frattanto, ogni notte continuavo il mio lavoro con cresciuta estasi. Non potevo più controllarlo. Presi ad usare la lima in un altro modo. Invece di consumarla, segavo via dei pezzetti interi. Zac, zac, zac, zac! Andai avanti così per mesi. Lei, ogni giorno più dolorante e corta, era ai miei occhi splendida, anzi splendente. Adesso, quando passeggiavamo, ormai sempre più raramente, era lei ad arrancare dietro di me. Si consumò così al mio fianco, in silenzio, senza lacrime, senza lamenti. Fu eroica. Mi è rimasta la sua lima. E questo vestito verde, il suo colore preferito. Bello, vero? Era così magnanima. È notorio che le relazioni lesbiche sono fondate sull'amore, sulla similarità e sulla dolcezza. I ain't got no dick and I am no chick. Some people even think that I am sick. I don't walk like I should, I don't talk like I should, I don't act like I should. As a hat, I'm no good. I'm a sex expander who attacks your hat. Mind causing your eyes, I'm not that kind of black or white. What your imagination is like. Fuck you, I'm a dyke. So you got a problem, boys and one. Please don't tell me I drive with a shot. So you got a problem and I fucking don't care. Cause I don't provide that you got me there. So you got a problem, so boys and one. Please don't tell me I drive with a shot. So you got a problem and I fucking don't care. Cause I don't provide that you got me there. So I am to the with a picture female with skirt, I wear my black jeans and my West Dyke shirt. The woman who washes her hands stares at me and she opens her mouth and she screams at me. You are wrong, you are wrong, I am right. Fuck you, I'm a dyke. Allora, siamo qui con Carlina, benvenuti, ciao. Ciao a tutte, ciao Daria. Sono molto contenta di farti questa intervista. Cominciamo dal pezzo di teatro che abbiamo appena ascoltato. Tu sei, anche se non ti piace definirti, vorrei definirti un'attrice di cabaret. Sì. Iniziamo quindi dal pezzo. Il pezzo è scritto da... da Paola Cavallin, il titolo è L'assassina e io l'ho trovato sfogliando il libro Scatti di teatro lesbico, dove tra le altre autrici c'è anche Paola Cavallin e in un momento particolare della mia vita una compagna mi consigliò di, come dire, di proiettarmi un pochino di più su tematiche a tema, perché inizialmente il cabaret a tema lesbico, sì, inizialmente come cabarettista scazzona, perché questa è la vera definizione che faccio di me, portavo pezzi scritti sì da bravi comici, uomini però, peraltro, come Paolo Migoni che mi scrisse il primo pezzo con il quale poi cominciai a divertirmi facendo cabaret. E quindi questa è stata la nascita, questo pezzo, la nascita del mio cabaret lesbico. È un pezzo chiaramente comico, ma forse anche tragicomico. Sicuramente. C'è dell'odio, diciamo. È un pezzo in cui emerge quella che poi sappiamo esistere, cioè le storie di violenza, di sopraffazione all'interno delle coppie lesbiche. Come viene preso questo pezzo quando lo porti in In giro. giro? Beh, questo pezzo ha fatto ridere tanto, ma si è portato dietro anche tante, tante critiche anche che io ho sempre ascoltato con interesse, nel Che senso, critiche? le critiche che sono state fatte sempre da donne lesbiche che avevano una cultura sul lesbismo superiore alla mia. Quindi le critiche poi sono state fatte perché manca alcune lesbiche manca un aspetto positivo come finale, ad esempio, c'è cioè una leggerezza e un accenno di speranza al superamento di quella violenza. Finisce con la pazzia, finisce male, come tanti film a tema lesbico, per esempio. Quindi mi consigliavano di aggiungere qualcosa, di innovarlo un po'. Poi è anche vero che l'accordo tra me e Paola Cavallin è stato quello di essere e rimanere il più fedele possibile al pezzo, insomma. E quindi E per la tua vita, questo pezzo immagino che abbia rappresentato qualcosa in una fase. Nella tua vita l'hai superato, immagino e spero, nel senso, sì, no? Questo, cioè, questo momento di odio, di pazzia, di però poi. bellissima questa domanda, Daria, bellissima, nel senso che nella vita ho avuto la fortuna di incontrare donne che con la loro cultura sul lesbismo e col loro lavoro sul lesbismo mi hanno veramente aperto un mondo. Sono andata oltre, ho cercato dopo di lavorare su di me, di capire più che altro questa radice violenta, questo rancore che mi portava alla fine delle relazioni, che peraltro poi ho capito naturale evento, perché succede, perché è così. Perché ritengo che con una persona fai un percorso e scegli le persone per fare quel percorso. Il per sempre ho capito che spesso e volentieri è una gran presa di culo, cattolica, imposta quindi. E quindi ho cominciato a lavorare, cioè, su questo aspetto, a capire che poi alla fine odiavo perché non accettavo l'abbandono, perché era un problema mio. Che mi sentissi abbandonata, infatti poi da lì ho sperimentato, ma anche prima tendevo a fare questo, con meno rancore, devo dire ora, non ce l'ho più il rancore, aspetto, stempero e col culo rotto che ho quasi sempre riesco a far sboccare dalla relazione l'amicizia. E questo è diventato anche cabaret? Sì, nel senso che non ho mai scritto dei pezzi miei se non un tentativo nell'ultimo spettacolo che ho portato un paio d'anni fa, nell'ultimo pezzo, ma poi alla fine non ho l'arte dello scrivere, quindi non sono autrice, perlomeno per ora, a meno che non mi succeda, L'evoluzione non vada avanti. sì, esatto. A girl that you might know, she's a friend, at least I tell you so, but it might surprise you to find there's something going on behind the door. When I'm asleep, it gives me time to think thoughts that I wouldn't dare speak aloud. Thank you. closer than you'd like to think. Dig up all the dirt you see, there's always more just underneath. I bide my time while biding my tongue. Hold close my mouth so songs unsung. Get to the meat of things already. Allora, queste che abbiamo ascoltato erano le Ditty Bops con Walk or Ride. Noi continuiamo la nostra trasmissione, la nostra intervista con Carlina Benvenuti per la prima puntata del ciclo della nuova trasmissione Puro Teatro, fuori dal dramma, dentro e oltre la comicità. E questa sera appunto con Carlina Benvenuti parliamo di cabaret lesbico, livornese. Partiamo dall'inizio, come è iniziato? Allora, tu intanto sei livornese e sei una persona fondamentalmente, sei una comica e sei una cabarettista nella vita. Sì, cioè, sì, da buona lapronica, cioè Livorno è così, va benissimo, cioè potrebbe andare meglio ma anche peggio, ci sto. Questa è la filosofia livornese, no? E quindi molto più scafata rispetto all'aspetto comico della vita, ridanciano, cioè a Livorno siamo sì. E com'è iniziato? È iniziato perché giocando a calcetto una trentina d'anni fa, boia come son vecchia, cacchio, mamma mia. Vabbè, una trentina d'anni fa giocavo a calcetto sempre con Paolo Migone, con la sua compagna, si faceva un calcetto misto e poi alla fine si andava a mangiare in pizzeria e lì una battuta io, una battuta Paolo, una battuta io, una battuta Paolo, c'era la tavolata che tutte le sere non veniva più tanto per giocare a calcetto ma per il dopo calcetto, no? Perché ci si sbracava dalle risate. E quindi niente, fu lui che mi disse: senti, ma visto che ce l'hai anche te questa verve comica, io faccio questo corso della regione per attore popolare comico, iscriviti, è gratuito. Mi ricordo che era una saccata d'ore che dissi, boia, una cosa come 200, oltre 200 ore, che a me notoriamente non piace lavorare, dura fatica. Dissi, boh, proviamo, poi si vede. E invece poi andò bene, lì venne fuori il pezzo sull'inserviente comunale, pezzo che poi ha avuto questo innesto lesbico da parte di Elena Rossi, che mi dette questa idea di connotare al lesbico il pezzo, e mi scrisse proprio una parte, cioè mi cambiò il finale praticamente, questa donna inserviente, incazzata nera col suo marito che non l'aiutava mai, che era l'unica a lavorare, sgobbava con questi due figlioli, che trombava di merda con quest'uomo, alla fine è miracolata. Questo è stato l'appendice finale che mi ha dato Elena, cioè, poi è miracolata che poi alla fine una mattina va a lavorare incazzata nera, sempre con questa famiglia di merda alle spalle, e trova una, l'aiuta in una peripezia particolare, si ritrova a salvare questa donna che scivola, la prende al volo tra le braccia e questa donna la ringrazia, si ringrazia, e questa lì poi a un certo punto fortuna vuole che l'appicci un ciuccione in bocca con lingua a tortiglione, e a questa V lì si apre il mondo, e queste V da quel momento lì non si lasciano più, figlioli li prende lei, quindi lei dice, boh, l'esperienza più bella della mia vita è il miracolo, lo descrive come miracolo. E quindi da lì poi ho continuato a lavorare, e anche sui pezzi che avevo a dargli degli spunti lesbici, ecco, questo è fondamentale per me, è stimolante, è una motivazione che non ho mai avuto e che non avevo più nel cabaret che mi scriveva Paolo, chi per lui, cioè ora sento già da un po' che lo spunto e la motivazione per andare avanti è quella di fare dei pezzi che parlano di lesbismo in maniera comica. Non ho autrici, ahimè, attualmente che mi possono seguire e scrivere testi, però vediamo. Quindi sei alla ricerca anche di autrici. Sì, Va bene, sicuramente. questo si può Sì, lanciare. lanciamo, lanciamo. Quindi ultimamente fai spettacoli in ambiente lesbico? Dea la grande, per forza di cose, ci sto troppo bene nel mio mondo e poi becco a bestia, insomma, voglio dire, cioè, Rimorchi? vado, boh, messi in patria la carlina, cioè, ora, ma sai, con l'età che ho bisogna che cominci a sfruttare anche quest'altro aspetto, no? Per cui vado, no, a parte gli scherzi, cioè, frequento quasi esclusivamente ambienti lesbici quando mi muovo, nel senso ogni giorno sono immersa nel mondo etero col lavoro, non che poi mi trovo bene anche lì, per l'amor di Dio, però quando poi mi muovo il movimento è verso il richiamo proprio, è verso quello che mi è più congeniale, cioè gli ambienti lesbici e far ridere le lesbiche è la cosa che mi dà il ritorno maggiore, insomma. Sì, vedere le lesbiche che ridono mi fa sangue, veramente, Sei stata alle 5 giornate lesbiche, hai sì. portato un tuo spettacolo alla Sì. masseria Sì, alle anche. masseria, sia alla masseria Sant'Anna, sia alle Sciare giù in Puglia, poi sono stata ad Agape, sono stata a Bologna, insomma, ho giricchiato un po', Al devo dire, Kesbilè a al Roma. Kesbilè a Roma, sì. sera Angela Baraldi con Scappo col Circo e noi siamo in compagnia di Carlina. Benvenuti. Che pezzo stai portando adesso negli ambienti lesbici o negli ultimi anni? È un pezzo particolare perché è un pezzo che ho scritto io finalmente, ho partorito proprio perché è stato lungo e pensato e ripensato, nel senso avendo questa sensazione di incapacità nello scrivere, non avevo più pezzi da portare, quindi gioco forza mi sono dovuta sperimentare. Ho portato questo pezzo che parla poi dell'esperienza vissuta dello sputtanamento in famiglia, di quando all'età di 16-17 anni la mia mamma mi pescò con la fidanzata di allora. E visto che quando lo raccontavo le donne ridevano, ho cercato di riportarlo in maniera coerente e fedele a quello che è stato l'evento. E quindi c'è questa cosa di questa simbiosi che avevo e che calco molto nel pezzo, questa simbiosi tra l'altro meravigliosa, se ti rimane ancorata alle prime volte, ai primi innamoramenti, dopo diventa veramente un suicidio, quella simbiosi lì che ben conosciamo noi lesbiche, sfido chi non ci sia passata durante i primi innamoramenti, ero praticamente immersa in questa simbiosi. E questa febbre, questo stato influenzale mi portò obbligatoriamente a stare a casa con questa febbre a 39-40 per qualche giorno, quindi sta mancanza nel delirio, ma Lidia quando la vedo, perché era questo il nome della fidanzata, tuttora è sopravvissuta, tendo a sottolineare all'esperienza, viva Vegeta, tuttora amica carissima mia. E quindi pensavo a questa Lidia nei deliri, ora come faccio? Mi sembrava di morire, ma non dalla febbre, morì perché non potevo vedere Lidia, chiaramente. E quando poi viene a trovarmi, la mia mamma colse l'attimo di poter andare dal dottore senza lasciarmi da sola, e con Lidia poi, appena viste al click della porta che si chiudeva, ci fu questa raffata passionale, e si cominciò con questa musica che mi ricordo perché ero molto rumorosa a suo tempo nell'espressione fisica e sessuale, quindi c'avevo chiaramente i vicini accanto, e misi a tutta palla il disco dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, con la traccia The Great Gig in the Sky, e con questo pezzo, con questa nera che cantava con questa voce bellissima, iniziai a fare franella, nemmeno l'amore, a miei tempi si iniziava con una franella come preliminare, bellissima questa franella, per cui con questi deliri di febbre rientrò la mia mamma, e mi ricordo che mi diceva: Carla, cosa fai? Io chiaramente non sapevo, mia mamma per me era dal dottore, quindi sentivo questa voce mentre ero lì con Lidia che mi baciavo appassionatamente, dicevo, sento le voci, in realtà le voci che sentivo erano quelle di mia mamma, perché c'era lo sciopero dell'autobus e mia mamma era arrivata alla fermata e non poteva andare dal dottore a piedi perché era dall'altra parte di Livorno, e rientrò a casa e quindi mi ritrovai con questa voce che al terzo Carla cosa fai aprì gli occhi, e Lidia aveva capito già al primo Carla cosa fai che era mimà, e c'aveva questi occhi iniettati di terrore che ancora rivedo a distanza di anni fermi e precisi nella memoria. E da lì poi, in maniera così del tutto impanicata, la mia mamma va via, io mi rivesto con Lidia e dico: Dio mio, ora cosa si fa? Buttiamoci di sotto, uccidiamo, cioè si deve fare qualcosa, buttiamoci di sotto. E mi diceva: ma Carla, cosa apri la finestra? Siamo a terreno, te abiti a terreno? Ma no, cioè, è vero, cioè, avevo perso completamente, ero immersa nel panico. Beh, allora scappiamo, prendo la valigia, metto la roba dentro. Dice: ma Carla, ma ce l'abbiamo i soldi? Rompiamo il salvadenaro. 500 lire, cioè, dove si va con 500 lire? Si gira l'angolo, si va alla latteria. E si fa la scorta per una settimana, se è finito Vaini. Sì, che ma allora come si può fare? Bisogna sparire. E lei tendeva a entrare in questo delirio fino a che fortunatamente c'entrò e disse: ma scusa, affrontala tu, ma cioè vai e parla. E mi ricordo che a quel punto dissi: boh, hai ragione, De. Proprio questa cosa la vedevo solo in maniera drammatica. Quindi niente, esco, vado in cucina e mi ricordo che la mia mamma, anche questo ricordo indelebile, era seduta a sgranare i fagioli. Per cui metto questa teiera sul fuoco e c'era un silenzio. Lei non mi diceva nulla, io non dicevo niente e c'era questo silenzio proprio insostenibile. Al che alla fine mi giro, vado, l'affronto e dico: scusa mamma, ma a te non ti è mai successo? Lei mi ricordo si girò e mi disse: no, a me no. E da lì tutto a posto, tutto tranquillo, tutto come se nulla fosse. E quindi il coming out che diventa storia da raccontare. Sì, anche perché non è stato minimamente drammatico, se non in quel momento specifico di presa di coscienza, oddio chissà cosa succede ora. In realtà, avendo una grande mamma, non successe niente e c'è stata anche la possibilità naturale nell'evolvere sul comico. Che cos'è la franella? Franella è quella parte preliminare basata su queste carezze e baci a tortiglione, no? A Livorno dice: dove vai? Voi non lo so, a Roma avete la Camporella, mi sembra, dove andate a fare l'amore in Camporella, no? Camporella? mi sembrava di aver sentito di che a Roma era così, no? Al solito, scazzo, too much. E quindi niente, no? Da noi invece la franella è questa cosa che caratterizza, cioè l'aspetto sessuale. A Livorno siamo bravi e brave in linea di massima perché si dedica tempo a questa, siamo cresciuti con il mito della franella, del preliminare poi alla fine, no? La franella ti dura 2 ore e magari trombi 3 minuti, è così, si concepisce così. Oye chica, ¿quieres saber la receta del pay? Buena vez. Sur le quai des foulards, mystère des regards, un air un peu magare. À la gare du hasard, sur le quai des regards, 5 heures mais à l'écart, il n'est jamais trop tard. Fragments d'origami, mon éventail de vie. Je replie sans merci les années de ma vie. On n'apprend pas l'oubli, rien n'est jamais fini. Me gusta el arroz. Nous sommes des femmes de tête, on ne pourra jamais nous marcher sur les pieds. Ils font les châteaux de sable avec l'aide du diable qui crache dans le vent la destruction du temps. C'est comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert, plus c'est haut, moins ça sert. Sûr que dans l'argent des riches, le sang des pauvres s'y niche. Sûr que dans l'argent des riches, le sang des pauvres s'y niche. les riches, le sang des pauvres est si niche, sûr que dans l'argent les riches, le sang des pauvres est si niche, sûr que dans l'argent les riches, le sang des pauvres est si niche, sûr que dans l'argent les riches, le sang des pauvres est si niche, sûr que dans l'argent les riches, le sang des pauvres est si niche, sûr que dans l'argent les riches, le sang des pauvres est si niche, sûr que dans l'argent les riches, le sang des pauvres est si niche, sûr que dans l'argent les riches, le sang des pauvres est si niche. E questa è Gare d'Azar delle Bella Donna 9CH. Para la fiesta de la vida, eso es. E noi siamo in compagnia di Carlina, benvenuti. Noi abbiamo visto anche un corto dove sei protagonista, sì. dell'Hell World, sì. di Circa Capone. Sì. Come è andata? Come ti ha coinvolta? Ma allora, diciamo, l'idea iniziale di Circa ventilava già da mesi, se non anni, perché si faceva sempre questa critica molto accesa a The L Word, che ripropone un lesbismo che ci caratterizzava e rappresentava veramente poco. Quindi queste strafie tutte piene di vaini che trombano in continuazione, vaini soldi, sì, pieni di soldi, belle, con dei lavori eccezionali, sempre sorridenti, ma quando mai, insomma. E quindi niente, poi alla fine quest'idea, in un momento particolarmente creativo di Circa, si è concretizzato e abbiamo riportato quest'idea, peraltro completamente sua, cioè io mi sono prestata solo per girare le scene che manco sapevo come poi venivano elaborate e come poi venivano realizzate. Cioè io andavo lì, mi faceva: te fai questa cosa, balla, il balletto sì, magari è stata l'unica cosa preparata, poi tutto il resto era a braccia, non c'era minimamente qualcosa di scritto che doveva essere comunque prima interiorizzato e appreso, no, c'era la situazione X, allora siamo qui in pescheria e te metti sulla tavolata con le amiche tue che sono queste cozze che distribuisci. Con la particolarità che chiaramente la realtà qual è quella che magari quella si è lasciata da quell'altra, per cui in quel momento lì, se quella si è lasciata con quell'altra, batte quell'altra che deve arrivare, insomma tutto il nostro caos meraviglioso, no? Poi anche il fatto delle fotografie, per esempio, che venivano poi utilizzate, cioè la mia faccia di culo veniva utilizzata per questi personaggi, da Wonder Woman, Sister Act a lei, cosa faccio poi, sì, sull'enduro, nella Parigi Dakar, insomma tutte queste fotografie qui, poi io non sapevo che sarebbero poi andate a coprire delle fotografie di Tizia, Caio e Semproni. E quindi The Guns è stata un'esperienza divertentissima, devo dire che con Circa si lavora, infatti ogni tanto dicevo, boh, se hai lavorato un'ora, mi faceva dire, Carla, un'ora, esce da fare tutto il giorno, boh, ma non ci pagano nemmeno, cioè, bisogna lavorare tutto il giorno. E niente, quindi è stata comunque un'esperienza carina, mi ha permesso poi di girare addirittura oltre l'Italia nei festival, siamo andate a Parigi, saremo ora a Pasqua a Toulouse, quindi cioè, mi sono veramente tolta un casino di soddisfazioni. Un film che fa ridere al di là del livornese stretto che parlo in tutto il film, è stato recepito o tramite la mimica, e, insomma, mi sono divertita un casino. Spero che ci sia un proseguo che è previsto per Pasqua, anche se siamo ancora in alto mare, però penso che prima o poi, forse Pasqua, ma se non è Pasqua sicuramente ci sarà un proseguo del film. Sì. Quindi c'è là un'autrice che ha capito e ha saputo anche prenderti. Sì, però cinematograficamente parlando, poi alla fine anche con Circa sul cabaret non è mai uscito il prodotto. Sul cinema è la sua cultura. Circa Capone comunque è una filmmaker, è il suo ambito. Sì, sì. Però lei ha saputo... Sì, lì sì, cioè, in una maniera geniale. Sì. E farti fare appunto recitare a Canovaccio... Sì, sì. Sì, devo dire che è stata quella che mi ha più rappresentata, devo dire, sotto questo aspetto, sì. È geniale, la trovo geniale. Senti, com'è esattamente il titolo? The L Word, capito? The L Word. E The è un intercalare tipicamente livornese. Alla grande, The. Lo senti, The, boy, The. È così, tutto così. Cioè, per dire una frase, boia de è ridondante proprio. È tutto boia de, perché de boia de è nel senso di, hai capito, de è un ciancicchino. De. Senti, è visibile da qualche parte che tu sappia su internet? Sì, sì. Su Produzioni dal Basso c'è tuttora, anche se poi no, miseramente non siamo riuscite ad avere e a finalizzare la raccolta di fondi, però è tuttora visibile e se no c'ho il link io che puntualmente e regolarmente mi scrivono e mi dicono ma ci fai vedere il film? E mi mando il link e se lo vedono, insomma. È fruibilissimo. Quindi non sai su che cosa sarà il prossimo episodio? Nella maniera più assoluta e sinceramente... Va bene così. Non me ne futto, ecco, nel senso va bene così, carta bianca, è lei che c'ha la testa per trovare la sceneggiatura anche, quindi va bene tutto. Io vado, mi fido. Le Rhin Prochain, The Lady Was Hungry. Salutiamoci. Salutiamoci. Va bene. Allora, grazie, le ossi classi sono del ringraziamento. Va bene, Carlina, grazie mille, grazie di essere stata con noi. Chiaramente i nostri microfoni sono aperti, siamo a disposizione quando vorrai, troverai. Cioè, mi è piaciuta bestia, quindi ci ritorno. Bellino è stosa, ma ha nutrito il mio ego smisurato, come mi diceva una mia ex, che avevo l'ego e che ho l'ego smisurato, quindi ti sei cata a mano perché ora la prossima settimana li sono qui. Torbone voglio mezz'ora, capito? Perché poi pretendo, cioè, di più, è così che funziona. Se mi ci trovo bene, cioè, mi scema. Sono anziana, ma non sono scema. Comunque la radio sì. Non le leggo, sì, a bestia. Sì. Poi sentirsi parlare. Boh, no? A bestia, proprio bello. Guarda, quasi quasi più di quando mi riprendo, perché quando mi riprendo sono un po' condizionata, ma verrò male, capito? Invecchio, c'ho un buon rapporto in questo momento col mio corpo, per cui sono tutta imbastita su questo aspetto, invece lì vai a ruota libera, proprio buono, perfetto. Va bene, allora alla prossima, grazie mille. Alla prossima, saluto tutte le lesbiche del mondo e vi lascio con la mia classica frase: più topa, meno tasse. Ciao a tutte. Ciao. Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Teatro, puro teatro. Fuori dal dramma, dentro e oltre la comicità. Pièce teatrali femministe e lesbiche in radio. Ai! Perdona che no te crea. Me parece che es teatro. Perdona che no te crea. Lo tuyo es puro teatro.